Siamo figli di Pitagora e di Casadei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con i Depeche Mode. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario Fo, cresciuti con una morale cattolica e con i Depeche Mode. We'll be right back.